Giornata quarta, parte prima di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata quarta, parte prima. Sagredo, non so se il ritorno vostro ai soliti ragionamenti sia realmente stato più tardo del consueto, oppur se il desiderio di sentire i pensieri del signor Salviati intorno a materia tanto curiosa me l'abbia fatto parer tale. Mi sono per una grossa ora trattenuto alla finestra, aspettando di momento in momento di vedere spuntar la gondola che avevo mandato a levarvi. Salviati, credo veramente che l'immaginazione vostra, più che la nostra tardanza, abbia allungato il tempo, e per non lo prolungar più, sarà bene che senza interporre altre parole venghiamo al fatto e mostriamo come la natura ha permesso, o sia che la cosa in rei veritate stia così, oppur per scherzo e quasi per pigliarsi giuoco dei nostri ghiribizzi, ha, dico, permesso che i movimenti, per ogni altro rispetto che per soddisfare al flusso e reflusso del mare, attribuiti gran tempo fa alla terra, si trovino ora tanto aggiustatamente servire alla causa di quello, e come vicendevolmente il medesimo flusso e reflusso comparisca a confermare la terrestre mobilità, gli indizi della quale sinora si son presi dalle apparenze celesti, essendo che delle cose che accaggiano in terra nessuna era potente a stabilir più questa che quella sentenza. Siccome a lungo abbiamo già esaminato con mostrare che tutti gli accidenti terreni per i quali comunemente si tiene la stabilità della terra e mobilità del sole e del firmamento devono apparire a noi farsi sotto le medesime sembianze posta la mobilità della terra e fermezza di quelli. Il solo elemento dell'acqua, come quello che è vastissimo e che non è annesso e concatenato al globo terrestre, come sono tutte le altre sue parti solide, anzi, che per la sua fluidezza resta in parte sui iuris e libero, rimane tra le cose sullunari, nel quale noi possiamo riconoscere qualche vestigio ed indizio di quel che faccia la terra in quanto al moto o alla quiete. Io, dopo aver più e più volte meco medesimo esaminati gli effetti ed accidenti, parte veduti e parte intesi da altri, che nei movimenti dell'acqua si osservano, e più lette e sentite le gran vanità prodotte da molti per cause di tali accidenti, mi son quasi sentito non leggermente tirare ad ammettere queste due conclusioni, fatti però i presupposti necessari, che quando il globo terrestre sia immobile non si possa naturalmente fare il flusso e reflusso del mare, e che quando al medesimo globo si conferiscano i movimenti già segnatili è necessario che il mare soggiaccia al flusso e reflusso conforme a tutto quello che in esso viene osservato. Sagredo, la proposizione è grandissima, sì per se stessa, sì per quello che ella si tira in conseguenza, onde io tanto più attentamente ne starò a sentire la dichiarazione e confermazione. Salviati, perché nelle questioni naturali, delle quali questa che abbiamo alle mani ne è una, La cognizione degli effetti è quella che ci conduce all'investigazione e ritrovamento delle cause, e senza quella il nostro sarebbe un camminare alla cieca, anzi più incerto, poiché non sapremmo dove riuscir ci volessimo, che i ciechi almeno sanno dove e vorrebbero pervenire. Però, innanzi a tutte le altre cose, è necessaria la cognizione degli effetti, dei quali ricerchiamo le cagioni. De quali effetti voi, signor Sagredo, e più abbondantemente e più sicuramente, dovete essere informato che io non sono, come quello che, oltre all'esser nato e per lungo tempo dimorato in Venezia, dove i flussi e reflussi sono molto notabili per la loro grandezza, avete ancora navigato in Soria e, come ingegno svegliato e curioso, dovete aver fatte molte osservazioni, dove che a me, che solamente ho potuto osservare per qualche tempo, benché breve, quello che accade qui, in questa estremità del Golfo Adriatico, e nel nostro mar di sotto, intorno alle spiagge del Tirreno, conviene di molte cose starmene alle relazioni di altri, le quali, essendo per lo più non ben concordi e per conseguenza assai incerte, confusione piuttosto che confermazione possono arrecare alle nostre speculazioni. Tuttavia, da quelle che abbiamo sicure e che sono ancole principali, parmi di poter pervenire al ritrovamento delle vere cause e primarie, non mi arrogando di potere addur tutte le ragioni proprie ed adeguate di quelli effetti che mi giugnesser nuovi e che in conseguenza io non potessi avervi pensato sopra. E quello che io son per dire lo propongo solamente come una chiave che apra la porta di una strada non mai più calpestata da altri, con ferma speranza che ingegni più speculativi del mio siano per allargarsi e penetrar più oltre assai di quello che avrò fatto io in questa mia prima scoperta. Ed ancor che in altri mari, da noi remoti, possano accadere degli accidenti che nel nostro Mediterraneo non accaggiono, non per questo resterà di esser vera la ragione e la causa che io produrrò, tutta volta che ella si verifichi e pienamente soddisfaccia agli accidenti che seguono nel Mar Nostro. Perché, finalmente, una sola ha da esser la vera e primaria causa degli effetti che son del medesimo genere. Dirò dunque l'istoria degli effetti che io so esser veri, ed assegneronne la cagione da me creduta vera. E voi altri, signori, ne produrrete degli altri noti a voi, oltre ai miei, e poi faremo prova se la causa da me addotta possa a quelli ancora soddisfare. Dico dunque tre esser i periodi che si osservano nei flussi e reflussi delle acque marine. Il primo e principale è questo grande e notissimo, cioè il diurno, secondo il quale, con intervalli di alcune ore, l'acque si alzano e si abbassano. E questi intervalli sono per lo più nel Mediterraneo di 6 in 6 ore in circa, cioè per 6 ore alzano e per altre 6 abbassano. Il secondo periodo è mestruo e par che tragga origine dal moto della luna, non che ella introduca altri movimenti, ma solamente altera la grandezza dei già detti, con differenza notabile, secondo che ella sarà piena o scema o alla quadratura col sole. Il terzo periodo è annuo e mostra dipender dal sole, alterando pur solamente i movimenti diurni, correndogli nei tempi dei solstizi diversi quanto alla grandezza da quel che sono negli equinozi. parleremo prima del periodo diurno, come quello che è il principale e sopra il quale par che secondariamente esercitino loro azione la luna ed il sole con loro mestrue ed annue alterazioni. Tre diversità si osservano in queste mutazioni orarie, imperocché in alcuni luoghi le acque si alzano ed abbassano senza far moto progressivo, in altri senza alzarsi né abbassarsi si muovono or verso levante ed or ricorrono verso ponente, e in altri variano altezze e variano il corso ancora, come accade qui in Venezia, dove l'acque entrando alzano e nell'uscire abbassano. E questo fanno nell'estremità delle lunghezze dei golfi che si distendono da occidente in oriente e terminano in spiagge, sopra le quali l'acqua nell'alzarsi ha campo di potersi spargere, che, quando il corso gli fosse intercetto da montagne o argini molto rilevati, quivi si alzerebbero ed abbasserebbero senza moto progressivo. Corrono poi e ricorrono, senza mutare altezza, nelle parti di mezzo, come accade notabilissimamente nel faro di Messina tra Scilla e Cariddi, dove le correnti, per la strettezza del canale, sono velocissime. Ma nei mari più aperti ed intorno all'isola di mezzo, come sono le Baleariche, la Corsica, la Sardegna, l'Elba, la Sicilia, verso la parte di Africa, Malta, Candia, eccetera, le mutazioni di altezza sono piccolissime, ma ben notabili le correnti, e massime dove il mare, tra l'isole o tra esse e il continente, si ristringe. Ora, questi soli effetti, veraci e certi, quando altro non si vedesse, parmi che assai probabilmente persuadano a chiunque voglia star dentro ai termini naturali a conceder la mobilità della terra. Imperocché ritener fermo il vaso del Mediterraneo e far che l'acqua che in esso si contiene faccia questo che fa supera la mia immaginazione e forse quella d'ogni altro che oltre la scorza si internerà in tale speculazione. Simplicio, questi accidenti, signor Salviati, non cominciano adesso, sono antichissimi e stati osservati da infiniti, e molti si sono ingegnati di renderne chi una e chi un'altra ragione. E non è molte miglia lontano di qui un gran peripatetico che ne adduce una causa, nuovamente esplicata da certo testo di Aristotele, non bene avvertito da suoi interpreti, dal qual testo ei raccoglie la vera causa di questi movimenti non derivar d'altronde che dalle diverse profondità dei mari, imperocché l'acque delle più alte profondità, essendo maggiori in copia e perciò più gravi, li scacciano l'acque dei minori fondi, le quali, poi sollevate, vogliono discendere. E da questo continuo combattimento deriva il flusso e reflusso. Quelli poi che referiscono ciò alla luna son molti, dicendo che ella ha particolar dominio sopra l'acqua, ed ultimamente certo prelato ha pubblicato un trattatello dove dice che la luna, vagando per il cielo, attrae e solleva verso di sé un cumulo d'acqua, il quale la va continuamente seguitando, sicché il mare alto è sempre in quella parte che soggiace la luna, e perché, quando essa è sotto l'orizzonte, pur tuttavia ritorna all'alzamento, dice che non si può dir altro per salvar tale effetto, se non che la luna non solo ritiene in sé naturalmente questa facoltà, ma in questo caso ha possanza di conferirla a quel grado del zodiaco che gli è opposto. Altri, come credo che sappiate, dicono pur che la luna ha possanza, col suo temperato calore, di rarefar l'acqua, la quale, rarefatta, viene a sollevarsi. Non ci è mancato anco chi, Sagredo, di grazia, signor Simplicio, non ce ne riferite più, che non mi pare che metta conto di consumare il tempo nel referirle, nemmeno le parole per confutarle. E voi, quando ad alcuna di queste o simili leggerezze prestaste l'assenso, fareste torto al vostro giudizio, che pur lo conosciamo per molto purgato. Salviati, io, che sono un poco più flemmatico di voi, signor Sagredo, spenderò pur 50 parole in grazia del signor Simplicio, se forse egli stimasse nelle cose da lui raccontate ritrovarsi qualche probabilità. Dico, pertanto, l'acque, signor Simplicio, che hanno più alta la loro superficie esteriore, discacciano quelle che gli sono inferiori e più basse, ma ciò non fanno già le più alte di profondità. E le più alte, scacciate che hanno le più basse, in breve si quietano e si librano. Bisogna che questo vostro peripatetico creda che tutti i laghi del mondo, che stanno in quiete, e tutti i mari, dove il flusso e reflusso è insensibile, abbiano i letti loro egualissimi. Ed io era sì semplice che mi persuadevo che quando altro scandaglio non ci fosse, l'isole che sopravanzano sopra l'acque fussero assai manifesto indizio dell'inegualità dei fondi. A quel prelato potreste dire che la luna scorre ogni giorno sopra tutto il Mediterraneo, né però si sollevano le acque, salvo che nelle sue estremità orientali, e qui a noi in Venezia. A quelli del calor temperato, potente a far rigonfiar l'acqua, dite che pongano il fuoco sotto di una caldaia piena d'acqua e che vi tengan dentro la man destra, sin che l'acqua per il caldo si sollevi un sol dito e poi la cavino e scrivano del rigonfiamento del mare. O dimandategli almeno che vi insegnino come fa la luna a rarefar certa parte dell'acqua e non il rimanente, come dir queste qui di Venezia e non quelle d'Ancona, di Napoli o di Genova. È forza dire che gli ingegni poetici siano di due specie, alcuni destri ed atti ad inventare le favole ed altri disposti ed accomodati a crederle. Simplicio, io non penso che alcuno creda le favole mentre che per tali le conosce, e delle opinioni intorno alle cagioni del flusso e reflusso, che son molte, perché so che di un effetto una sola è la cagione primaria e vera, intendo benissimo, e son sicuro che una sola al più potrebbe essere vera, ma tutto il resto so che son favolose e false. Forse anche la vera non è tra quelle che sinora sono state prodotte. Anzi, così credo essere veramente, perché gran cosa sarebbe che il vero potesse aversi poco di luce, che nulla apparisse tra le tenebre di tanti falsi. Ma dirò bene, con quella libertà che tra noi è permessa, che l'introdurre il moto della terra e farlo cagione del flusso e reflusso mi sembra sinora un concetto non men favoloso di quanti altri io me n'abbia sentiti. E quando non mi fusser porte ragioni più conformi alle cose naturali, senza veruna repugnanza, passerei a credere questo essere un effetto soprannaturale e perciò miracoloso ed imperscrutabile dagli intelletti umani, come infiniti altri ce ne sono, dipendenti immediatamente dalla mano onnipotente di Dio. Salviati, voi discorrete molto prudentemente e conforme anche alla dottrina d'Aristotele, che sapete come nel principio delle sue questioni meccaniche attribuisce a miracolo le cose delle quali le cagioni sono occulte, ma che la causa vera del flusso e reflusso sia delle impenetrabili, non credo che ne abbiate indizio maggiore che il vedere come, tra tutte quelle che sin qui sono state prodotte per vere cagioni, nessuna ve ne è con la quale, per qualunque artificio si adoperi, si possa rappresentare da noi un simile effetto. Atteso che né con lume di luna o di sole, né con caldi temperati, né con diverse profondità, mai non si farà artificiosamente correre e ricorrere, alzarsi ed abbassarsi in un luogo sì ed in altri no, l'acqua contenuta in un vaso immobile. Ma se col far muovere il vaso senza artificio nessuno, anzi, semplicissimamente, io vi posso rappresentar puntualmente tutte quelle mutazioni che si osservano nelle acque marine, perché volete voi ricusar questa cagione e ricorrere al miracolo? Simplicio, voglio ricorrere al miracolo se voi, con altre cause naturali che col moto dei vasi delle acque marine, non me ne rimuovete, perché so che tali vasi non si muovono, essendo che tutto l'intero globo terrestre è naturalmente immobile. Salviati, ma non credete voi che il globo terrestre potesse soprannaturalmente, cioè per l'assoluta potenza di Dio, farsi mobile? Simplicio, e chi ne dubita? Salviati, adunque, signor Simplicio, giacché per fare il flusso e reflusso del mare ci è bisogno di introdurre il miracolo, facciamo miracolosamente muovere la terra, al moto della quale si muova poi naturalmente il mare, e questa operazione sarà anco tanto più semplice, e dirò naturale tra le miracolose, quanto il far muovere in giro un globo, dei quali ne veggiamo tanti altri muoversi. È men difficile che il fare andar innanzi e indietro, dove più velocemente e dove meno, alzarsi ed abbassarsi, dove più e dove meno e dove niente, un'immensa mole d'acqua, e tutte queste diversità farle nello stesso vaso che la contiene, oltre che questi sono molti miracoli diversi, e quello è un solo. Ed aggiungete di più che il miracolo del far muovere l'acqua se ne tira un altro in conseguenza, che è ritener ferma la terra contro agli impulsi dell'acqua, potenti a farla vacillare, or verso questa ed or verso quella parte, quando miracolosamente non venga ritenuta. Sagredo, di grazia, signor Simplicio, sospendiamo per un poco il nostro giudizio circa il sentenziar per vana la nuova opinione che ci vuole esplicare il signor Salviati, e non la mettiamo così presto in mazzo con le vecchie ridicolose. E quanto al miracolo, ricordiamovi parimente, dopo che avremo sentito i discorsi contenuti dentro ai termini naturali, sebben, per dire il mio senso, a me si rappresentano miracolose tutte le opere della natura e di Dio. Salviati, e io stimo il medesimo, né il dire che la cagion naturale del flusso e reflusso sia il movimento della terra, toglie che questa sia operazione miracolosa. Ora, ripigliando il nostro ragionamento, replico e raffermo essersi sinora ignoto come possa essere che l'acqua contenuta dentro il nostro seno mediterraneo facciano quei movimenti che far se gli veggono, tutta volta che lì stesso seno e vaso contenente resti immobile. E quello che fa la difficoltà e rende questa materia inestricabile sono le cose che dirò appresso e che giornalmente si osservano. Però notate, siamo qui in Venezia, dove ora sono le acque basse ed il mar quieto e l'aria tranquilla. Comincia l'acqua ad alzarsi ed in termini di 5 o 6 ore ricresce 10 palmi e più. Tale alzamento non è fatto dalla prima acqua che si sia rarefatta, ma è fatto per acqua nuovamente venutaci, acqua della medesima sorte che era la prima, della medesima salsedine, della medesima densità, del medesimo peso. I navili, signor Simplicio, vi galleggiano come nella prima, senza demergersi un capello di più. Un barile di questa seconda non pesa un sol grano più né meno che altrettanta quantità dell'altra. Ritiene la medesima freddezza non punto alterata. È, insomma, acqua nuovamente e visibilmente entrata per i tagli e le bocche dell'alio. Trovatemi ora voi come ed onde ell'è qua venuta. Son forse qui intorno voragini o meati nel fondo del mare per le quali la terra attragga e rinfonda l'acqua, respirando quasi immensa e smisurata balena? Ma se questo è, come nello spazio di 6 ore non si alza l'acqua parimente in Ancona, in Ragugia, in Corfù, dove il ricrescimento è piccolissimo e forse inosservabile? Chi ritroverà modo di infondere nuova acqua in un vaso immobile e far che solamente in una determinata parte di esso ella si alzi e altrove no? Direte forse questa nuova acqua venirgli prestata dall'oceano, porgendogliela per lo stretto di Gibilterra? Questo non torrà le difficoltà già dette, ed arrecheranne delle maggiori. E prima, ditemi, qual deve essere il corso di quell'acqua che, entrando per lo stretto, si conduca in 6 ore sino alle estreme spiagge del Mediterraneo, in distanza di 2.000 e 3.000 miglia, e che il medesimo spazio ripassi in altrettanto tempo nel suo ritorno? Che faranno i navili sparsi per il mare? Che quelli che fussero nello stretto in un precipizio continuo di un'immensa coppia di acque, che entrando per un canale largo non più di 8 miglia abbia a dare il transito a tant'acqua che in 6 ore allaghi uno spazio di 100 miglia per larghezza e 1000 miglia per lunghezza? Qual tigre, qual falcone corse o volò mai con tanta velocità? Con velocità, dico, da far 400 e più miglia per ora. Sono, né si nega, le correnti per la lunghezza del golfo, ma così lente che i vascelli da remi le superano, sebben non senza scapito del loro viaggiare. Inoltre, se quest'acqua viene per lo stretto, resta pur l'altra difficoltà, cioè come si conduca ad alzar qui tanto in parti così remote senza prima alzar per simile o maggior altezza nelle parti più propinque? Insomma, non credo che né ostinazione né sottigliezza d'ingegno possa ritrovar mai ripiego a queste difficoltà, né in conseguenza sostener contro di esse la stabilità della terra, contenendosi dentro ai termini naturali. Fine della giornata quarta, parte prima, registrazione di Pierre.